Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ai giovani, ma più in generale a tutti i nostri concittadini, io continuo a chiedere con tutta la forza di cui dispongo il rispetto delle tre regole fondamentali che sono rimaste. Le tre regole di cui abbiamo già discusso in tante altre occasioni e che confermeremo naturalmente anche nel prossimo DPCM che è in scadenza, perché l'ultimo è in scadenza il 7 di settembre. L'uso corretto delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro e il rispetto delle norme igieniche fondamentali a partire dal lavaggio delle mani. Questo lo ha ribadito, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi in Parlamento, nella sua informativa sulla situazione del coronavirus in Italia, il ministro della Salute Speranza. Ha ricordato appunto quali sono i presidi principali, le misure ormai universali, globali, valide per contrastare il coronavirus, almeno tra l'altro soprattutto in questa fase in cui la situazione è molto meno grave che nei mesi passati. In Italia bisogna continuare a mantenerla in questo modo, anche perché Speranza ha fornito i dati degli altri paesi europei, altri paesi nel mondo che vanno molto peggio dell'Italia, quindi dobbiamo cercare di mantenere alta la guardia per andare sempre di più verso un orizzonte migliore. Poi ha detto molte altre cose, tra cui naturalmente che la scuola, la riapertura della scuola in sicurezza è l'assoluta priorità dell'Italia, del governo italiano in questo momento e anche di altri paesi. E poi ha anche annunciato, fra le molte cose dette oggi in Parlamento, che AstraZeneca, questa azienda farmaceutica globale, che vi ricordate, abbiamo parlato molto spesso qui a Effetto Notte, ha creato una partnership con il laboratorio di Pomezia, IRBM, e con l'Università di Oxford, sono stati protagonisti spesso qui a Effetto Notte, perché hanno messo a punto un vaccino che è in stato di avanzata sperimentazione. C'è questa partnership appunto già nei mesi scorsi con AstraZeneca, che oggi ha firmato ufficialmente un contratto con la Commissione Europea per fornire, sempre che le cose poi vadano per il meglio, milioni di dosi già entro la fine del 2020. Speranza ha detto che ci vuole cautela, che la sperimentazione va avanti molto bene, che però insomma è una cosa molto positiva, però ancora da prendere un pochino con le pinze. Ne parleremo, dobbiamo riuscire a raggiungere, se ci riusciamo, amministratore delegato di IRBM, che è stato altre volte presente qui del laboratorio di Pomezia, qui a Effetto Notte. Poi parleremo di referendum. Sapete che il 20 e il 21, insieme alle elezioni amministrative comunali, regionali e comunali, si voterà anche per il referendum relativo al taglio dei parlamentari. Sì o no? Faremo sentire due ospiti per fornirvi le ragioni degli uni e degli altri, degli schieramenti opposti, poi vi farete voi una vostra idea. Per i vostri messaggi 349-238-6666, messaggi WhatsApp, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che forse sono riuscita a far ritornare all'immagine tradizionale che per me funziona di più. E poi parleremo di Venezia, tra mille misure, precauzioni eccetera, ha riaperto la mostra del cinema internazionale di Venezia, di calcio, poi di moltissime altre cose. Non vado avanti ad anticiparvi le cose, c'è tra poco la sintesi, vi racconto della giornata, e poi tutti questi temi in particolare li approfondirò come sempre con gli ospiti. Possiamo partire. Il coronavirus in Italia, record di tamponi, oltre 100.000, mai così tanti, 1.326 nuovi casi e 6 morti, anche Silvio Berlusconi positivo. L'informativa di Speranza al Senato, scuola priorità assoluta, dice, previsti 11 milioni di mascherine per ragazzi e personale docente, annuncia il vaccino entro il 2020. Decreto Covid, via libera dalla Camera con polemiche, 28 deputati 5 Stelle non partecipano al voto. Caso Navalny, Berlino accusa Mosca, l'oppositore di Putin vittima del veleno delle spie. Il Cremlino si dice pronto a collaborare. Arte, addio al critico Philippe Daverio, aveva 71 anni, docente, saggista e divulgatore, fu assessore a Milano. Cinema tra muri e mascherine alza il sipario la 77esima edizione della Mostra di Venezia. Sport, Tour de France, maglia gialla penalizzata, passa ad Adam Yates, a fine mese i mondiali di ciclismo a Imola. E per il calcio, Serie A maschile, si riparte il 19 settembre. Partiamo quindi dalla situazione aggiornata sul coronavirus in Italia. Tornano a crescere i nuovi casi nel nostro paese, a fronte però di un record di tamponi processati, quasi 103.000. E il ministro della Salute Speranza ha fatto il punto della pandemia in Senato. Risalgono i contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.326, ieri 978, con un numero record di tamponi processati superiore a 100.000. 6 i decessi, 2 in meno di ieri. Sale ancora il numero di pazienti in terapia intensiva, 109, 2 in più. Numeri che confermano una risalita della curva epidemica, evidenziata anche dal ministro della Salute Roberto Speranza nella sua informativa al Senato. Il quadro epidemiologico europeo si è giorno dopo giorno significativamente deteriorato e anche nel nostro paese, in Italia, pur se in un quadro lontano dai paesi europei che riscontrano maggiori difficoltà, abbiamo riscontrato una graduale salita del numero dei contagi. Al momento, tuttavia, il dato italiano è molto simile a quello della Germania, continua Speranza, ed è ad oggi tra i migliori dati del contesto europeo. E ci sono notizie positive sul fronte dei vaccini. Nelle ultime ore è stato reso definitivo, conferma il ministro della Salute, il contratto tra la Commissione europea e AstraZeneca, in cui c'è scritto che le prime dosi, se il vaccino dovesse essere confermato come sicuro, saranno già disponibili entro la fine del 2020. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in serata si è appreso, dicevo, che Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid, lo ha confermato il suo medico Alberto Zangrillo. Berlusconi ha 84 anni, a fine mese sarebbe comunque asintomatico e in isolamento a domicilio nella sua villa di Arcore. Nel frattempo in Sardegna c'è la prima vittima della seconda ondata della pandemia da coronavirus. Salvatore Nurra, 78 anni, un pensionato di Bonorva, è morto ieri nel reparto di malattie infettive dell'AO di Sassari, dove era stato ricoverato il 23 agosto per la positività al Covid-19. Pensionato, soffriva però di altre gravi patologie ed è la prima vittima che si registra nell'isola dal 6 luglio scorso. E passiamo alla politica. Dopo lo scontro nella maggioranza, dalla Camera arriva il via libera alla fiducia sul decreto Covid che proroga al 15 ottobre lo stato di emergenza. Preceduta dalle polemiche anche nella maggioranza, alla Camera passa la fiducia sul decreto Covid. Il via libera arriva con 276 sì, 194 no e un'astensione. 28 deputati 5 Stelle non hanno partecipato al voto. Tra i grillini, il ricorso alla fiducia aveva alimentato critiche al governo perché non ha permesso di votare l'emendamento presentato da 50 deputati pentastellati con l'obiettivo di cancellare la norma, cara al premier Conte, che proroga per 4 anni i vertici dei servizi segreti. Tirato in ballo, il ministro degli esteri Di Maio nega di aver ispirato l'emendamento e ribadisce la fiducia in Conte. Sempre a Montecitorio, nel frattempo, è stato calendarizzato l'esame in aula di due provvedimenti chiesti a gran voce dal Partito Democratico in vista del referendum sul taglio dei parlamentari. Il 28 settembre quello della legge elettorale, 3 giorni prima invece quello della legge Fornaro con i correttivi costituzionali che dovranno accompagnare il taglio dei parlamentari in caso di una vittoria dei sì. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi ne parleremo, capiremo meglio che cosa è successo. Ci spostiamo però intanto all'estero, in Francia, per la seconda volta dopo venerdì della scorsa settimana, i nuovi positivi in 24 ore superano in Francia quota 7.000. Sono 7.017, ma i tamponi hanno superato per la prima volta quota 1.000.000 in una settimana, come promesso dal governo. Arriviamo al caso Navalny. Il governo tedesco ha acquisito prove che non lasciano dubbi sul fatto che il dissidente russo Alexei Navalny sia stato avvelenato. Il governo russo è chiamato a fare chiarezza con urgenza, scrive il portavoce di Angela Merkel. E in una nota Merkel dice: Navalny è vittima di un crimine, condanno con forza questo crimine. Berlino convoca l'ambasciatore russo, Mosca dichiara: non conosciamo i risultati dei test, e la Russia si dice però pronta per un'ampia cooperazione con la Germania. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, parla di un attacco codardo e spregevole da parte della Russia al dissidente Navalny. Gli Stati Uniti si dicono molto turbati di questo episodio, che definiscono riprovevole, parole di condanna anche da parte dell'Italia. Gli Stati Uniti varano una stretta alle attività svolte dai diplomatici cinesi negli Stati Uniti. I diplomatici americani in Cina affrontano barriere costanti al loro lavoro. Oggi il Dipartimento di Stato ha imposto nuovi requisiti ai diplomatici senior della Repubblica Popolare che conducono riunioni ed eventi negli Stati Uniti. Sosterremo sempre un trattamento equo dei nostri diplomatici all'estero, ha scritto su Twitter il segretario di Stato Mike Pompeo, annunciando le misure, tra cui figura l'autorizzazione preventiva per visitare le università. Di nuovo in Italia, parliamo di scuola. Sulle graduatorie dei supplenti prosegue lo scontro tra la ministra dell'istruzione Azzolina e i sindacati. Parlare di causa delle graduatorie appare infondato, pretestuoso e fuorviante. Il Ministero dell'Istruzione scende così in campo e difende il lavoro fatto sulle graduatorie provinciali per le supplenze, liste criticate dai sindacati perché piene di errori. 40.000 domande con anomalie sono già state escluse, puntualizza il Ministero, ricordando che sono arrivate oltre 1.900.000 domande presentate da 753.000 aspiranti insegnanti. La Basilicata intanto ha scelto di riaprire le scuole il 24 settembre e non il 14 come la maggioranza delle regioni, ampliando così a 6 il fronte delle istituzioni locali che hanno posticipato l'inizio dell'anno scolastico. La riapertura delle scuole, dice il ministro della Salute Roberto Speranza, è una sfida che si vince solo uniti, non servono divisioni o strumentalizzazioni, e ricorda che 11 milioni di mascherine chirurgiche saranno distribuite a studenti e personale scolastico. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Riaperto dopo 2 mesi di bonifica all'ospedale della donna e del bambino di Verona, colpito dall'infezione di Citrobacter, infezione che ha colpito oltre 90 neonati causando la morte di 4 di loro dal 2017 a oggi. Batterio killer a Verona, il governatore del Veneto Luca Zaia chiede alla procura di fare presto, le famiglie hanno diritto ad avere giustizia. Il presidente della regione si riferisce alle conclusioni della relazione di esperti che ha accertato che fra il 2018 e il 2020 nell'ospedale della donna e del bambino, il più grande punto nascita del Veneto, c'è stata un'elevata circolazione di Citrobacter. Il batterio, si legge nel documento, ha causato la morte di 4 neonati, mentre altri 100 sono stati contagiati. Si era annidato nel rubinetto utilizzato dal personale sanitario per dare il latte ai piccoli ricoverati in terapia intensiva neonatale. Altre tracce sono state trovate nei biberon. Per questo a giugno il punto nascita di Verona è stato chiuso e sanificato ed è stato riaperto il 1 settembre. Poco dopo la mezzanotte c'è stato il primo parto. Zaia e il direttore generale della Sanità Veneta hanno chiesto all'ospedale di prendere in modo urgente i provvedimenti necessari anche in via cautelare. Il viceministro Sileri ha annunciato l'invio degli ispettori, mentre Francesca Frezza, la mamma di Nina, il cui esposto ha fatto scoppiare il caso, chiede le dimissioni dei vertici dell'azienda ospedaliera. Antonino Padovese, Radio 24, Sole 24 Ore, Verona. Arte, addio allo storico Philippe Daverio. Si è spento nella notte all'Istituto dei Tumori di Milano. Docente, saggista, ex assessore alla cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni, un critico noto al grande pubblico anche per le trasmissioni televisive di arte e di cultura di cui è stato autore e conduttore, e anche collaborato con diverse riviste e quotidiani. Il ministro della cultura Franceschini ha detto: era un intellettuale di straordinaria umanità, un capace divulgatore della cultura, uno storico dell'arte, sensibile e raffinato. Novità per il bonus bicicletta. Il decreto attuativo per il bonus mobilità è stato registrato domenica scorsa alla Corte dei Conti e sabato 5 settembre sarà finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Lo annuncia il ministro dell'Ambiente Costa, che dice: non nascondo che ci siano stati degli intoppi amministrativi, lo si aspettava da un po', dice che comunque con il lavoro a pieno ritmo in tutto il mese di agosto abbiamo superato. Ha sottolineato, lo ha scritto su Facebook, che il fondo è stato quasi raddoppiato da 120 a 210 milioni, spiegando che dal 5 settembre partiranno i 60 giorni necessari alla società per finire il portale e assicurare la possibilità di utilizzare queste risorse aggiuntive. Dal 4 novembre quindi al via i rimborsi, e dice non ci sarà nessun click day, cioè non bisognerà stare lì dall'alba pronti per schiacciare il tasto sul computer, ma sarà una cosa, da quello che annuncia il ministro, più tranquilla e ordinata. Per chiudere c'è lo sport. con la Serie A maschile che riprende al via il 19, partenza con Juventus e Sampdoria, Inter e Atalanta, e Inter e Atalanta slittano, scusate, poi naturalmente approfondiremo con il nostro Dario Ricci, e c'è anche il ciclismo. A novembre a Imola tornerà la Formula 1, ma tra 20 giorni, dal 24 al 27 settembre, ospiterà i prossimi campionati del mondo di ciclismo. L'ha deciso oggi il governo mondiale della bicicletta, l'UCI, che ha assegnato a Imola la rassegna iridata dopo la rinuncia della Svizzera, che si era aggiudicata ai mondiali con Aigle martedì. Poi, per questioni di Covid, la Confederazione Elvetica ha declinato l'impegno, mentre per questioni di Covid l'UCI ha deciso di assegnargli a Imola una sorta di riconoscimento planetario al nostro modo di affrontare l'emergenza pandemica, a detta del presidente David Laportien. Sul fronte Tour, tappa anonima, senza nemmeno un tentativo di fuga, che uno vince la grandissima, il trionfatore di Strade Bianche e Sanremo, Wout van Aert, che si aggiudica in volata la quinta tappa del Tour da Gap a Privas, battuto di mezza ruota l'olandese Chris Ball, terzo Sam Bennett, quarto Peter Sagan. Il colpo di scena arriva nel dopocorsa. Il francese Julien Alaphilippe ha perso la maglia gialla a causa di una penalizzazione di 20 secondi per rifornimento irregolare. Ha preso una borraccia a 17 km dalla fine, cosa non possibile dai regolamenti. E dunque il nuovo leader è il britannico Adam Yates. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, direi che con lo sport si chiude, come sempre, a questo punto la sintesi della giornata, per ricominciare tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti, per chi viaggia, a approfondire alcuni dei temi principali con gli ospiti. E vi aggiorno su alcune notizie che arrivano in questi momenti. Abbiamo detto che Berlusconi è risultato positivo al Covid-19, anche se asintomatico ed è in isolamento nella sua villa di Arcore, e sono positivi a Covid anche i figli Luigi e Barbara. E poi una notizia di cronaca, anche questa di pochi istanti fa: un neonato è stato trovato morto in strada a Rocca Piemonte, vicino Salerno. Il corpicino, questa sera, si legge, intorno alle 19, è stato notato in una viola di via Roma da un residente che ha dato l'allarme. I carabinieri della locale stazione, i colleghi della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti insieme alla polizia municipale e si attende appunto un esame del medico legale. Ci sentiamo a momenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Avete sentito, vi ho riassunto come sempre all'inizio le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, adesso invece addentriamoci in alcune di queste. Per esempio, notizia di pochi istanti fa è che il Center for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti ha notificato alle autorità sanitarie degli Stati americani e a 5 delle maggiori città statunitensi di prepararsi a distribuire il vaccino per il coronavirus ai lavoratori sanitari e ai gruppi a più alto rischio fra la fine di ottobre e inizi di novembre, lo riporta il New York Times. Addirittura una tempistica pazzesca, qui c'è una corsa al vaccino che naturalmente si spera sia a beneficio di tutti, no? Perché in tanti laboratori, tante aziende farmaceutiche eccetera stanno rincorrendo il vaccino, perché al momento sembra l'unico modo per liberarsi di questo maledetto coronavirus. C'è chi brucia i tempi, bisognerà capire anche questo, addirittura entro ottobre-novembre. Però noi parliamo di una cosa che ci riguarda molto da vicino, a proposito di vaccino, perché il ministro, vi dicevo all'inizio, il ministro della Salute Speranza, oggi nella sua informativa al Senato, in cui ha parlato della situazione legata al coronavirus nel nostro paese, ha anche annunciato, ha detto: nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto tra la Commissione Europea e AstraZeneca, in cui c'è scritto che le prime dosi, se il vaccino dovesse essere confermato come sicuro, saranno già disponibili entro la fine del 2020. Vi ricordo che AstraZeneca è un'azienda globale biofarmaceutica operante nella ricerca, che aveva siglato una partnership già nei mesi scorsi con il laboratorio IRBM di Pomezia e l'Università di Oxford, che insieme hanno messo a punto un vaccino che adesso è in uno stato di avanzatissima sperimentazione. E qui, effetto note, abbiamo avuto sin dall'inizio i protagonisti sia del laboratorio di Pomezia nel Lazio, sia dell'Università di Oxford. E adesso quindi voglio sentire ulteriori buone notizie da Piero Di Lorenzo, che è presidente dell'IRBM di Pomezia. Buonasera Di Lorenzo, grazie della disponibilità. Buonasera, buonasera. Senta, quindi mi pare che ci siano, sono troppo ottimista a dire ottime notizie. Dobbiamo prendere con cautela, guardi, ha detto comunque Speranza, però mi sembrava speranzoso, tanto per essere in tema. Diciamo che noi in questo momento siamo in una prudente attesa con un cauto ottimismo, ecco, mettiamola così. Anch'io sento praticamente a livello mondiale un fervore per arrivare ad un a gol su questa battaglia che è veramente importante, anzi è vitale. E ho difficoltà a fare annunci e ad andare oltre, perché con la scienza non si sa mai fino all'ultimo, fino a quando non c'è il timbro definitivo, è meglio non parlare. Diciamo che il vaccino messo a punto da Oxford IRBM e che adesso viene gestito, prodotto e distribuito da AstraZeneca è in una avanzatissima fase di sperimentazione. Voglio essere ottimista e diciamo che mi leggo a quello che ha detto il ministro Speranza, che certo non ha parlato con leggerezza, visto che è il ministro e visto che parlava in un'aula parlamentare. Per cui incrociamo le dita, diciamo che questo vaccino, candidato vaccino, può diventare abbastanza presto vaccino. Detto questo, sentivo che lei nella sua presentazione faceva un riferimento a chi ne potrà beneficiare. Sì. Due cose. Se ammesso che tutto vada bene, facciamo sempre questa premessa, ammesso che tutto vada bene, il ministro Speranza, inserendosi nel gruppo dei decisori, i quattro ministri europei che hanno condotto la trattativa e che hanno firmato un accordo che poi è stato definitivamente firmato dalla Commissione, dal Presidente della Commissione europea, e si è messo e ha messo il Paese in una condizione di oggettivo vantaggio. Aggiungerei però che io ho fatto veramente i salti di gioia quando ho saputo che la partnership con Oxford si sarebbe allargata ad un'azienda globale come AstraZeneca, e perché lei capisce facilmente che parlando di questi volumi e di queste estensioni, come si può parlare di un vaccino che è atteso in tutto il mondo da 8 miliardi di persone praticamente, avere una capacità organizzativa e finanziaria come la può avere una multinazionale è una garanzia assolutamente di successo. Certo. Oltretutto, e questo mi sembra abbastanza meritorio che debba essere sottolineato, AstraZeneca si è impegnata a produrre 2 miliardi di dosi, fino a 3 miliardi di dosi entro il 2021, e quindi coprendo una grossa fascia della necessità mondiale, e a venderlo ad un costo che praticamente è il costo industriale, quindi non ci sarà nessun over relativo alla brevettualità, alla proprietà intellettuale, e questo mi sembra molto meritorio in una fase di pandemia come questa. Chiaro, quindi lei è prudente, però è ottimista, Piero Di Lorenzo, e c'è l'orgoglio anche che ci sia tanta Italia in questo vaccino che ha delle buone, questo candidato vaccino che ha delle buone possibilità, come diceva lei, di diventare il vaccino. Aspettiamo quindi fiduciosi, intanto complimenti. Grazie a Piero Di Lorenzo, presidente di RBM di Pomezia. Grazie, staremo a vedere, insomma ci aggiorniamo. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a lei. Oh, e dopo questo passiamo invece alla politica. Sapete che il 20 e il 21 settembre prossimo, tra pochi giorni, in concomitanza con le elezioni comunali e regionali, si voterà anche per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Vi do proprio due indicazioni pratiche. Le urne saranno aperte quindi domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Per votare, lo sapete, però ve lo ricordo, è necessario andare al proprio seggio elettorale che è scritto sulla propria tessera elettorale con la tessera stessa e con un documento di riconoscimento valido. Il quesito del referendum confermativo recita così, vi dico il testo e poi dopo diciamo cos'è in definitiva. Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale numero 240 del 12 ottobre 2019. In definitiva, se si risponde sì a questo quesito, si sostiene il taglio dei parlamentari, cioè la riduzione dei parlamentari. Se si risponde no, si scrive no, si è contrari al taglio e dunque si vota per il mantenimento dello status quo. Diciamo che tutte le forze politiche presenti in Parlamento, che pure nei mesi scorsi hanno quasi votato all'unanimità per la riduzione, attualmente sono attraversate davvero da tanti tormenti e divisioni. Anche il Movimento 5 Stelle è una sua battaglia, il suo cavallo di battaglia, una sua bandiera, ha comunque una sua piccola fronda interna che vorrebbe votare per il no, ma chiaramente il Movimento 5 Stelle si è sempre presentato con chiaro il sì. La Lega è per il sì, ma non mancano i distinguo. Forza Italia è spaccata, ci sono anche acque molto agitate anche tra i Dem, tra il Partito Democratico, un po' tiepido è Italia Viva. La Meloni direbbe sì, però sa che con il no probabilmente sarebbe una mazzata per il governo dei 5 Stelle, di PD e 5 Stelle. Quindi diciamo, se vince il sì, i parlamentari passeranno dagli attuali 945 a 600, cioè i deputati della Camera in specifico si ridurranno da 630 a 400, i senatori passeranno da 315 a 200. Quindi per il sì, in estrema sintesi, sono coloro che dicono sono troppi parlamentari rispetto agli altri paesi occidentali, si riducono, se li riduciamo, si riducono anche i costi e si snellisce il lavoro del Parlamento. Chi invece è favorevole al no del taglio dei parlamentari dice che sarebbe un danno per la democrazia rappresentativa, sarebbe a discapito della rappresentatività dei cittadini. Ma sentiamo le ragioni del sì e del no da due ospiti che vi presenterò tra pochissimo, ai quali chiedo veramente di spiegarsi in modo molto molto chiaro, in modo che capiscano dall'ingegnera di Palermo sino al casalingo di Voghera, perché deve essere chiaro il sì e il no, le ragioni degli uni e degli altri, in modo assolutamente sintetico. Vi prego, e saluto quindi la senatrice Emma Bonino, ha bisogno di presentazioni, leader storica del Partito Radicale, delle sue battaglie, e fondatrice di Più Europa, di cui è appunto leader, e poi Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 Stelle, sottosegretario all'interno del governo Conte. Buonasera a tutte e due, Emma Bonino. Buonasera. Carlo Sibilia, buonasera. Allora, buonasera Sibilia, cominciamo dal Movimento 5 Stelle, visto che questo è stato appunto una, e lo è tuttora, una bandiera del Movimento. Perché sì al taglio dei parlamentari, Sibilia? Beh, innanzitutto è un modo di rendere più efficiente il lavoro del Parlamento. Ci lamentiamo che le cose vanno lentamente e che i problemi si risolvono con difficoltà, ma invece con il taglio dei parlamentari sarà possibile invece essere più spediti. E tutto questo lo facciamo anche con una riduzione dei costi sensibile, e comunque salvaguardiamo quella che è la rappresentanza, che anzi viene a giovarsi a livello di riconoscibilità dei candidati, dei parlamentari. Quindi tutto questo insieme, tra l'altro, aggiunge anche un altro risultato, che è quello di restituire un po' di rapporto di fiducia tra il cittadino, che ha sempre visto la classe parlamentare come approfittatrice o comunque alle volte non degna di come potrebbe essere il comportamento che la Costituzione ci impone, quello di disciplina e onore, e quindi in questo modo abbiamo un rapporto sicuramente più serio e restituiamo quella fiducia al cittadino. Finalmente una classe politica che taglia se stessa e non alza le tasse o taglia stipendi ai parlamentari, ai cittadini comuni. Quindi questo secondo me è un vantaggio per tutti. Queste sono le ragioni fondamentali, che può anche portarci ad avere delle leggi più efficienti, ridurre delle strumentalizzazioni, discussioni strumentali tra partiti politici che dovranno così anche ridurre le loro polemiche e quindi un paese anche più unito. Queste secondo me sono le cose più importanti sulle quali si fa leva per dire sì il 20 e il 21 settembre. Ministro Carlo Sibilia, un minuto e mezzo preciso è stato a lei Emma Bonino. Perché no al taglio dei parlamentari? Perché la democrazia rappresentativa parlamentare è un sistema complesso, fatto di bilance non si può francamente come dire togliere un mattone oggi, un mattone domani. È come se in un condominio quelli del primo piano decidessero di togliere una trave portante senza rendersi conto o senza della stabilità del caseggiato complessivo. La situazione della riduzione dei costi non esiste. Il Parlamento costa un cappuccino all'anno per ogni cittadino italiano, ma col taglio dei parlamentari, che è veramente non una riforma, non chiamiamola così, semmai è appunto una bandiera, intere regioni saranno senza rappresentanti. Tant'è vero che per rimediare ad alcune di queste conseguenze perniciose si sta già discutendo con la legge Fornaro, per esempio, o d'altre, di rimediare in qualche modo a questi inconvenienti. Quindi si approva con il sì una riforma che però andrà modificata per attutire gli inconvenienti che porta con sé. Io trovo tutto questo, non perché il numero dei parlamentari sia scritto per tabulas, ma penso che anche la riduzione dovrebbe rientrare in un discorso più organico, complessivo del nostro sistema democratico di rappresentanza. Mi si dice ma tutto questo si farà dopo, non capisco perché non si faccia prima. Il dopo che si prevede è una legge elettorale più pessima ancora, se fosse possibile, con le liste bloccate, con leggi enormi in cui nessuno conoscerà il proprio candidato e parteciperanno alle elezioni quei candidati che hanno tanti soldi da farsi conoscere in questi candidati, in questi collegi enormi, veramente enormi. Chiarissima Emma Bonino, ha superato un pochino, ancora un minuto per Carlo Sibilia, poi ancora un minuto per lei, senatrice Bonino, e poi devo chiudere. Prego Sibilia, proprio dichiarazione definitiva, insomma, perché bisogna votare sì per convincere gli ascoltatori delle sue buone ragioni, del Movimento 5 Stelle in particolare. Sì, dico anche che non è un ragionamento opportunistico né di bandiera, perché noi ad esempio del Movimento 5 Stelle siamo quelli che abbiamo più parlamentari, ma nonostante questo, per tenere fede alle promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale, stiamo portando avanti una riforma. Ovviamente c'è la rappresentanza, rimane invariata, anzi ripeto, ci sarà un parlamentare ogni 150.000 italiani, il che significa rientrare nelle medie europee dove prima sballavamo di gran lunga, e soprattutto finalmente possiamo dire che restituiamo la fiducia al cittadino nella politica, perché finalmente teniamo fede a delle promesse. Perché non facciamo prima delle modifiche di legge che dovranno essere chiaramente fatte con la legge elettorale per garantire in modo tale che tutti abbiano la stessa rappresentanza, ma qui non parliamo della rappresentanza, non la facciamo prima perché il referendum non è stato ancora, non ha ancora il suo verdetto. Poi, infatti, succede che chi sostiene il no dà per scontato che vinca il sì. Quindi da questo punto di vista avremmo potuto fare anche già delle modifiche, ma aspettiamo l'esito positivo della modifica costituzionale in modo tale poi da dare tutte quelle garanzie che sono chiaramente normali, perché noi stiamo soltanto toccando il numero dei parlamentari, nient'altro. Quindi più efficienza al Parlamento e meno spese. Chiaro. Sibilia, ancora un minuto per Emma Bonino, poi vi devo lasciare. Sull'efficienza del Parlamento e delle Camere, francamente, è da stendere un pietoso velo. Le Camere sono umiliate ogni giorno con decreti a raffica seguiti da voti di fiducia su qualunque materia possibile e immaginabile, e la fiducia viene messa sempre per tenere insieme la maggioranza, non per problemi con l'opposizione. Quindi l'efficienza va con l'efficacia. Se la Basilicata non avrà più rappresentanti, la Sardegna possibilmente, e potranno concorrere con liste bloccate, quindi quello che si prevede è che il cittadino non sceglierà il proprio rappresentante, ammesso che riesca a conoscere. Ma intanto un dato di prudenza: un sistema istituzionale non si cambia ogni volta, ogni giorno, un mattone di qui e un mattone di là. Mi sembra che la nostra democrazia meriti più rispetto, senza pensare e far credere che senatori e deputati sono dei fannulloni e quelli che mangiano a sbaffo da X anni. Questa è veramente pura demagogia. Chiarissime, vi ringrazio per la sintesi, per la chiarezza, e quindi insomma poi si vedrà, ognuno di chi sta ascoltando, milioni e milioni di ascoltatrici e ascoltatori si faranno una loro idea. Grazie ad Emma Bonino, senatrice e fondatrice di Più Europa, e Carlo Sibilia, deputato Movimento 5 Stelle, sottosegretario all'interno. Grazie, grazie, buon lavoro. A voi. Grazie. Grazie. A voi, allora, qui solita pausa di riflessione, così potete riflettere anche su quello che avete sentito per le ragioni del sì e no, per il taglio dei parlamentari, il referendum che si voterà il 20 e 21 settembre, poi ci tornerò ancora naturalmente nei prossimi giorni. Intanto questa è però così una panoramica dei due schieramenti. Continuate con i vostri, vedo anche diverse opinioni sia su WhatsApp sia al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, però poi mi li leggerò per conto mio, perché stasera poi si rischia, leggendo più uno più gli altri, insomma, di sbilanciare. Invece su questo bisogna essere assolutamente imparziali, quindi ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, la cosa migliore che possiate fare a quest'ora, a partire dalle 21, soprattutto se desiderate essere costantemente informati, aggiornati, tutto quello che succede di più importante in Italia e all'estero. Roberta Giordano naturalmente tutte le sere a raccontarvelo nel modo più chiaro, esauriente possibile, insieme naturalmente anche agli ospiti. Abbiamo parlato intanto con il presidente del laboratorio di Pomezia IRBM del vaccino che è in fase di avanzata sperimentazione in collaborazione con Oxford, di cui abbiamo parlato tante volte qui a Effetto Notte, che adesso è in partnership anche con l'azienda farmaceutica globale AstraZeneca, che ha firmato proprio in queste ore un contratto con la Commissione Europea. Quindi c'è tanta Italia in questo candidato vaccino che potrebbe diventare entro la fine dell'anno il vero vaccino. Insomma, c'è molta cautela, ma anche così del velato, vogliamo dire, ottimismo. E poi abbiamo parlato del referendum, perché 20 e 21 si vota, ve lo spiegavo prima anche un po' le modalità, e avete sentito le ragioni del sì e del no al taglio dei parlamentari. Spero che abbiate ascoltato con attenzione, vi siate fatti una vostra idea, anche se vedo molti commenti sia attraverso i WhatsApp al 349-238-6666, sia tante ragioni per il sì e per il no anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che poi stavo leggendo ma non leggerò pubblicamente perché non voglio pesare né da una parte né dall'altra. Adesso restiamo sulla politica, ma con la nostra Barbara Fiammeri, bentornata del Sole 24 Ore, cara Barbara. Buonasera. Allora Barbara, invece con te voglio parlare di quello che sta che è successo nelle ultime ore, negli ultimi due giorni all'interno della maggioranza con il decreto Covid. Oggi è passata la fiducia alla Camera sul decreto Covid, che proroga praticamente lo stato di emergenza fino al 15 ottobre. Però che cosa è successo? Che 28 del Movimento 5 Stelle, quindi uno dei due maggiori partiti della maggioranza, 28 non hanno votato. Poi hanno detto che 7 erano assenti giustificati, insomma, però è chiaro che c'è del malessere. Ci spieghi che cosa è successo, che cos'è che non quadrava a parte del Movimento 5 Stelle, che ragioni ci sono dietro? Ma in particolare è una norma che è stata inclusa nel decreto agosto, che prevede la possibilità di rinnovare i vertici dei servizi segreti. Rispetto a questa norma, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, una cinquantina, avevano proposto un emendamento per sopprimere questa norma. Cioè non volevano la proroga dei vertici attuali dei servizi segreti, non volevano che fosse prorogato il loro mandato. E quindi avevano presentato questo emendamento. Il governo però ha mantenuto la norma, e per evitare insomma che ci fossero problemi, perché non dimentichiamo che alla Camera il voto è segreto, sugli emendamenti, quindi il rischio che questo emendamento insomma passasse era molto elevato. Il governo ha messo la fiducia, come diceva prima la senatrice Bonino. Molto spesso questo governo, ma anche i governi che lo hanno preceduto, mettono la fiducia non per problemi tanto con le opposizioni quanto per problemi all'interno della stessa maggioranza. E così è stato oggi. Cioè, spieghiamo se vincono i contrari a ciò che viene votato, che chiaramente cade la fiducia al governo, cade il governo, insomma. Il voto di fiducia, essendo un voto palese, qui ci sono 28. Poi se siano tutti e 28, se alcuni erano assenti giustificati, ammalati, non lo sappiamo, cioè il Movimento 5 Stelle dice che solo 7 erano ingiustificati, mi sembra un numero un po' basso, una stima un po' troppo ottimistica da parte loro, però è chiaro che alla Camera, stavo dicendo, è un conto, perché il rapporto tra maggioranza e opposizione è, insomma, è a favore della maggioranza in modo schiacciante, tant'è che sono bastati, mi sembra, 278 voti per far passare la fiducia. Ma al Senato è tutta un'altra storia, cioè al Senato anche meno di 28, cioè ne servono 28 per mandare sotto il governo. Quindi se al Senato un'altra fronda dei 5 Stelle dovesse, perché adesso questo provvedimento va al Senato e quindi dovrà passare poi l'esame del Senato e arrivare in aula, se in aula una fronda analoga a quella che abbiamo visto, registrato oggi alla Camera, si dovesse manifestare, beh, cadrebbe il governo. La vedi come uno scenario possibile questo, Barbara? Sinceramente no, sinceramente no, non credo. Penso che comunque la situazione si fa sempre più complicata, anche perché l'arrivo delle elezioni regionali e del referendum sta mettendo a dura prova i nervi dei partiti di maggioranza e dello stesso governo. Insomma, in questi giorni vediamo un Conte molto silenzioso, praticamente non ha più parlato il Presidente del Consiglio. Perché? Perché è arrabbiato? Perché sta studiando le strategie? Perché non ha molto da dire? O è rimasto male perché aveva chiesto al Movimento 5 Stelle, mi sembra, di allearsi col Partito Democratico per le elezioni amministrative? Un ragionamento che è mio, vale per quel che può valere. E vale moltissimo. Intanto direi che non schierarsi, non partecipare troppo è anche un modo per evitare poi, in caso di sconfitta, di prendersela addosso. Non basterà questo, ovviamente, a Conte. E l'altro, appunto, perché poi Conte ha sponsorizzato a più riprese un accordo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, e da parte dei 5 Stelle, che sono poi coloro che l'hanno designato, non dimentichiamoci mai che all'inizio di questo governo Giuseppe Conte è stato sostanzialmente imposto da Grillo, cioè il sì dei 5 Stelle al governo col PD poteva avvenire solo con la presenza di Giuseppe Conte, mentre Zingaretti aveva posto il veto proprio su Conte, quindi Zingaretti il veto se l'ha dovuto rimangiare. E adesso in questo momento Conte sembra più abbandonato dai 5 Stelle che dal PD. Senti Barbara, per chiudere, notizia tra la politica, l'aspetto sanitario di Silvio Berlusconi: è sentito positivo al Covid anche i figli Luigi e Barbara, però per il momento è asintomatico, è nella sua villa di Arcore. Lui aveva fatto già la settimana scorsa un tampone, perché è uno di quelli che ha visto, tra gli altri, ha visto Briatore. E quindi il primo tampone aveva dato esito negativo, ma come avviene in questi casi poi il tampone va replicato, perché se sei stato a contatto con dei positivi non è detto che immediatamente tu diventi risulti positivo. E quindi a questo secondo tampone è risultato positivo, e con lui anche i figli. Però la precisazione è che è asintomatico, sta bene, e che quindi continuerà a sostenere in questa campagna elettorale Forza Italia centrodestra. Chiaramente c'è preoccupazione, perché comunque stiamo parlando di una persona di 84 anni, sappiamo che il Covid è particolarmente come dire, violento con gli anziani, quindi, però per adesso Berlusconi ha parlato anche questa sera, cioè non è alla che... La scorza dura. Va bene, allora auguri a Berlusconi. Barbara Fiammeri, ci sentiamo naturalmente nei prossimi giorni di fuoco, avvicinandosi alle elezioni amministrative e al referendum. Un abbraccio da Barbara. Ciao. Arrivederci, buona serata. Viabilità e poi di nuovo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie di sport adesso con il nostro Dario Ricci, che naturalmente ci parlerà del bonus bici, è vero Dario? Forse anche no, nel senso che tra l'altro abbiamo una bellissima intervista al ministro Costa da parte della nostra Alessandra Schepisi, Ci racconterà questo bonus tanto atteso. Sì, so che atteso. C'è stato parecchio ritardo, ma io al massimo posso parlare. Tu eri già pronto per il monopattino, però invece vuoi parlarci di... Non lo amo molto, lo ritengo un pochino, insomma, sì, per noi anziani, poi tu mi capisci, no? Io sono bici da corsa, quindi altro che... So che andavi in moto, ma una volta si è smontata mentre stavi sopra, una cosa tragica, sei arrivata tutta a pezzi qua, una cosa... Non dipendeva da me. L'avevo appena portata al meccanico, si è staccato il parafango. Va bene, passiamo ad altro, sorvoliamo. Dicevamo, la serie a maschile il 19. Sì, 19-20 settembre, le date erano note, adesso sappiamo anche le partite, la Juventus ad esempio, campione d'Italia, esordirà con la Sampdoria a Torino. Ecco, in questo caso cito la Juventus sia, come si dice, noblesse oblige, visto lo scudetto sulle maglie, ma anche perché la Regione Piemonte ha chiesto ufficialmente venga riaperto lo stadio della Juventus. E chiaramente c'è questo aspetto molto importante su questo campionato. Il calendario quest'anno è un pochino meno banale del solito, no? Perché poi molti allenatori hanno già commentato, dice, prima o poi ci incontriamo tutti, quindi anche se poi non è sempre così, nel senso che chiaramente conta il momento di forma in cui ci si sfida, eccetera eccetera, però sicuramente il ritorno sugli spalti auspicabile e sicuramente altrettanto graduale dei tifosi inciderà su questo calendario, perché magari alcune partite si disputeranno a porte chiuse, quindi magari tu all'andata, ecco, Juventus Sampdoria sarà a porte chiuse, magari al ritorno potrebbe essere invece a Marassi col pubblico parzialmente presente o auspichiamo addirittura totalmente, quindi questo sarà un elemento questa volta che inciderà sicuramente più pesante. Comunque, ecco, scorrendo il calendario segnalo la penultima giornata, perché ci sarà la sfida tra Inter e Juventus e il derby tra Roma e Lazio, mentre il derby di Milano sarà la quarta giornata, alla decima quella di Torino, ma insomma poi per i tifosi il gusto è quello un po' di andarselo a sfogliare e vedere chi è stato più o meno fortunato, ecco, esattamente. Senti Dario, abbiamo ancora quei 33 secondi perché tu hai voglia di parlare di un papà. Sì, oddio, chi è? Chi è? Oddio, chi è il papà? Papà di Messi? Ah, il papà di Messi! C'è tutta la storia del papà di Messi e di Messi che dura qualcosina in più. Però si sta ancora svolgendo l'incontro del papà di Messi con i vertici del club del Barcellona. L'addio sembra scontato, ma quello che a questo punto interessa sono le modalità, perché balla una clausola rescissoria di 700 milioni e un potenziale accordo che si dice che abbia già trovato. È uscita adesso l'Ansa, che bello che ci aggiorna su questa cosa. È durata un'ora e mezza la riunione tra il presidente del Barcellona e Josep Maria Bartomeu e George Messi. Non c'è l'accordo. Papà ha detto non se ne fa niente. È un muro contro muro e quindi sarà ancora più difficile che Messi a questo punto possa lasciare pacificamente il Barcellona, insomma. Quindi sarà un bel braccio di ferro ancora lungo, direi. Grazie caro Dario Ricci. Grazie a te. È un segno importante non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Il fatto che ci siano presenti a Venezia gli 8 direttori degli 8 più grandi festival del cinema europei è il segno di una ripartenza collettiva. Bisogna usare tutte le misure di precauzione, di sicurezza, rispettarle, ma si può ripartire. Si può ripartire, dice il ministro della cultura Franceschini, e infatti la mostra internazionale del cinema di Venezia, tra muri, mascherine, precauzioni varie, è ripartita sul sipario di Venezia 77, ne è vero Marta Cagnola? Ciao Marta. Buonasera, buonasera Roberta. Sì, questa sera è partita la mostra di Venezia, non è un particolare secondario questo fatto che ci siano i grandi direttori degli altri festival, perché è il primo grande festival in presenza dopo il lockdown. Già. Perché Cannes cancellato, Locarno sostanzialmente cancellato, svoltosi quasi tutto online, ma di fatto un vero e proprio festival di Locarno non c'è stato. E tutto riparte con Venezia. Cosa riparte con Venezia? Ripartono i festival, ma riparte anche l'industria cinematografica mondiale, perché il rischio per le sale è molto grosso, il rischio di chiusura, il certo. rischio che il pubblico non voglia tornare in sala, il rischio che non arrivino nuove produzioni con i set che si sono fermati per molto tempo. Quindi davvero gli occhi di tutta l'industria cinematografica mondiale sono puntati su Venezia. Senti, sì, Marta, sì. Apertura italiana con Lacci di Daniele Lucchetti con Luigi Locascio e Alberto Facher. Facciamo sentire una clip. Che c'è? Sono stato con un'altra. Quello che ti è successo può succedere. Noi abbiamo fatto un patto quando abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Te lo ricordi o no che abbiamo fatto un patto? Se ti sei innamorato, cambia tutto. Se dici ora la verità, tu salvi la vita a tutti. Ti sei innamorato? Nessuno voleva fare del male a nessuno. Tu non te ne vai da nessuna parte. Una storia familiare un po' agitata, Marta. Sì, un po' agitata, come piace molto ai film italiani, ma in questo caso l'agitazione è decisamente giustificata. Lacci non è solo omonimo, ma è proprio tratto dal libro di Domenico Starnone. I Lacci sono quelli dei legami familiari di una coppia che vediamo sia ai giorni nostri, interpretata da Silvio Orlando e da Laura Morante, sia nel loro passato, interpretati da Luigi Locascio e Alvaro Orvacher, sia con i loro figli che quando diventano grandi sono Adriano Giannini e Giovanna Mezzogiorno. È un film tra passato e presente. Cosa di particolare? Chi ha letto Lacci sa benissimo che è un libro in cui non succede moltissimo, è un libro di grande introspezione che parla dei rapporti emotivi, sentimentali, ma anche dei movimenti interiori delle coppie. Come si mette sullo schermo? L'esperimento è molto facile, io l'ho appena visto e devo dire che è un film che sarà da vedere. C'è stata un'anteprima assolutamente straordinaria con tutto il pubblico in 100 cinema italiani. Non era mai successo che la cerimonia di apertura e il film d'apertura di Venezia andassero nei cinema contemporaneamente, anche questo è un segnale, insomma, per dare un impulso alle sale, ma sarà al cinema dal 1 ottobre per tutti. Bene, quindi un invito a ritornare al cinema per il 1 ottobre con questo film Lacci, che vedremo che percorso avrà dentro appunto questa 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, di cui ci racconterà anche nei prossimi giorni Marta Cagnola, che saluto. Ciao Marta, buon cinema allora. Ciao. A presto. E noi ci sentiamo tra pochissimo a Ratta con la Folgore, infatti vi aggiorno poi alle 22. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.